uccidere l'hip hop è precetto del re biblico al figlio benedetto. Street sound, quinto comandamento, il suono spegne con le rime tuo lamento. Nelle radio con finte faide ci si scanna, non uccidere l'hip hop è la major che ti inganna. Rimpiango i sound dei 90, la mia anima è triste e affranta. Credo nella doppia H, non ucciderla coi suoni di plastica. Non viverla come se fosse asettica, non usare il rap come una tattica. Vivi l'emozione di una chiusura, brucia nella testa la segatura. Non uccidere la passione, la tua fotta, crea rima su rima come un'eterna lotta. Non uccidere l'hip hop, cambia mestiere o fallo gratis, fa divertire il tuo quartiere. Deflagrazione doppia H, mietendo vittime. L'hip hop che uccide chi gioca con le rime. Dentro te già morto, non puoi uccidere l'hip hop. Se ti definisci un rapper mentre in radio passano i tuoi pezzi pop, sulla scena ti credi uno che vale, ma per la tua persona sei l'unico rivale. Un plagio futuristico, per niente originale. Col tuo fare ostile uccide anche lo stile nello stivale. Oggi tutti fanno hip hop, lo sto facendo anch'io. Nessuno ha la pretesa di sentirsi Dio, tranne te, idolo di baby killer. Impegnati a scrivere testi degni di nota, di trailer thriller dove ammazzano chi gli si fa davanti, postando video in cui violentano veline in abiti succinti. Ma io di morto ci vedo solo gli interessi, nel necrologio la tua foto e sotto ci leggo i tuoi versi. Un'altra vittima, l'arma riposta nella fondina. È l'hip hop che uccide e si macchia la fedina. Non uccidere l'hip hop, cambia mestiere o fallo gratis, fa divertire il tuo quartiere. Deflagrazione doppia H, mietendo vittime. È l'hip hop che uccide chi gioca con le rime. Non vuoi uccidere l'hip hop, sei radicato dentro. Non vuoi sradicare una radice dal cemento. Se la tagli poi ricresce, sempre più forte. Puoi rallentarne il battito, ma sopravvivrà la morte. Cazzo vi lamentate, se alimentate l'hip hop solo con le cazzate. Non c'è amore, solo odio. Testi senza contenuti, un vinile senza l'audio. East Coast, West Coast, la crew rivale. Nord e Sud alla ricerca dell'NC più criminale. Gangstar che si atteggiano da star, come il dado si sciolgono nel loro brodo primordiale. Se fosse il giusto flow, cerco la guest star, zoomo sui particolari della scena mondiale. Se cerchi un club c'è un'applicazione, se vuoi sapere di chi è sto pezzo c'è un'applicazione. Per tutto c'è un'app tranne per il rap, se vuoi farlo bene ci vuole applicazione. Non un'applicazione, ci vuole passione. Non uccidi l'hip hop, ma il talento con la prostituzione. Non uccidere l'hip hop, cambia mestiere o fallo gratis, fa divertire il tuo quartiere. Deflagrazione doppia H, mietendo vittime. È l'hip hop che uccide chi gioca con le rime. Non vuoi uccidere l'hip hop, sei radicato dentro. Non vuoi sradicare una radice dal cemento. Se la tagli poi ricresce, sempre più forte. Puoi rallentarne il battito, ma sopravvivrà la morte.